America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. The U.S. Navy is moving an aircraft carrier group toward the Korean Peninsula in a show of force as concerns mount at the Pentagon over North Korea's advancing weapons program. Ecco, avete sentito il newscast? Posso confermarvi che la flotta americana guidata dalla Carl Vinson, ma con numerose altre navi da guerra, con la portaerei Nimitz, con circa 40 cacciabombardieri su queste navi, con due lanciamissili, con uno spiegamento di forze alquanto impressionante, sta posizionandosi per minacciare la Corea del Nord, per lanciare un avvertimento sia a Pyongyang che a Pechino, che insomma le cose devono cambiare. Altrimenti, così come in Siria, c'è stato un attacco di ritorsione per l'utilizzo di armi chimiche contro la popolazione civile in violazione di qualunque norma internazionale, beh, se non ci sarà da parte della Cina un controllo delle intemperanze della Corea del Nord, a quel punto gli Stati Uniti interverranno. Ecco, detto tutto questo, questa è la notizia che vi ho dato, del resto l'avete vista, avete visto le immagini in televisione, questa flotta impressionante che sta avanzando. Ecco, ma cosa sta capitando in America? Che cosa sta capitando alla Casa Bianca? Beh, da un certo punto di vista, ve lo raccontavo la settimana scorsa, c'è stato un cambiamento improvviso di posizionamento di quello che è il cerchio magico che ruota attorno a Donald Trump, e cioè Steve Bannon, l'anima nera di questa amministrazione, un personaggio che è pronto a tutto, che vorrebbe distruggere l'apparato statale americano, che vuole una rivoluzione, che vuole in qualche modo usare la politica estera per fini elettorali interni, è stato messo da parte. Questa cosa è importante, questa cosa ha colpito, ha sorpreso, il presidente ha dato molto più spazio ai generali, persone con la testa sulle spalle, persone di cui, dicevamo, doveva fidarsi, e finalmente forse ha capito che è meglio fidarsi di loro più che di altri personaggi improbabili. Detto questo, c'è in Donald Trump una politica dell'improvvisazione. Donald Trump non ama avere delle regole del gioco molto precise, tiene le carte molto vicine al petto, non vuole scoprirsi e in questo modo, come dire, prende in contropiede gli avversari. È una strategia che non può funzionare a lungo, una strategia soprattutto che non dovrebbe appartenere alla superpotenza, di fatto garante dell'equilibrio e dell'ordine mondiale. Ma per ora è così. E dunque il messaggio che Donald Trump ha dato al leader cinese è stato molto chiaro durante il loro vertice. Cerca di controllare Pyongyang. Se non succederà, se ci sarà un altro lancio, bene, interverremo noi. E per dare maggiore concretezza a questo messaggio, proprio ieri Donald Trump ha parlato con il leader giapponese Abe, ovviamente infuriato dal fatto che Pyongyang continui a lanciare questi missili, come ha fatto l'altro giorno. Ha lanciato un missile proprio prima dell'incontro al vertice tra la Cina e gli Stati Uniti, e devo dire che se la Cina sapeva di questo piccolo lancio di questo missile, beh, se oggi Donald Trump manda una flotta, forse non sta sbagliando. We're hopeful that Russia will choose to play a constructive role in supporting ceasefires, and if we can achieve ceasefires in zones of stabilization in Syria, we hope we will have the conditions to begin a useful political process. Ecco, qui avete sentito Rex Tillerson, ha parlato ieri alla CBS, a Face the Nation, ha detto: ci auguriamo che la Russia scelga di giocare un ruolo costruttivo in Siria sostenendo il cessate il fuoco. Se riusciremo ad attuare questo progetto potremo avere le condizioni necessarie per un dialogo politico efficace. Ecco, però Tillerson ha anche detto che la Russia è stata incompetente. Incompetente perché? Perché non è riuscita a controllare la Siria in quello che doveva essere l'impegno ad eliminare le armi chimiche. Ricordiamolo, c'è stato un attacco nel 2013 contro la popolazione civile. La Russia riuscì poi a fare un compromesso con Barack Obama, che evitò così di attaccare come aveva promesso, in cambio di un disarmo completo dell'arsenale chimico siriano. Ebbene, tutto questo non è successo. Insomma, ecco, gli Stati Uniti si stanno muovendo, stanno chiarendo fin dai primi 100 giorni dell'amministrazione che qui la musica è cambiata. Non è immaginabile, non è pensabile che possano esserci continue violazioni, continui sberleffi a quello che è l'ordine precostituito, un ordine tutto sommato costruito dagli Stati Uniti, costruito con altre nazioni, costruito sulla base di un diritto internazionale che dovrebbe garantire la stabilità mondiale. Comunque vedremo come andrà questo vertice a Mosca, ma certamente Tillerson batterà qualche pugno sul tavolo e io credo che Mosca farà bene a rendersi conto che le cose sono davvero cambiate. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre nuove frontiere inesplorate. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, insomma, abbiamo visto tensioni geopolitiche di ogni genere. Il segretario al tesoro Mnuchin ha preannunciato, forse già questa settimana, delle sanzioni commerciali, magari delle tariffe contro la Cina. I mercati forse saranno un po' agitati. La settimana scorsa sono stati relativamente stabili, ma la tensione permane. Dunque, di Bob Dylan vi propongo "The Hard Rains Are Gonna Fall". Avremo una pioggia molto dura. Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!